di pace tra loro uscito nel tumulto del cuore. Battiti d'amore in pura sinfonia, le labbra tremanti, un sussurro divino, un abbraccio che scalda l'anima, un destino. I vostri sogni volano come fragili fiori, mentre la notte esplode. Hello.